Anche se il futuro, come si diceva una volta, sta sulle ginocchia degli dèi, non è necessario essere dei grandissimi profeti o dei politologi particolarmente esperti per prevedere che la ribellione del presidente Formigoni, quale era stata annunciata all'inizio della settimana testé trascorsa, non è destinata a durare un granché. L'individuo ha molte doti, anche se non forse tutte quelle che i media, Radio Popolare compresa, gli riconoscono in questi giorni, ma non è certo uno di quelli che si spezzano ma non si piegano, almeno quando si tratta di adattarsi alle tattiche della politica e alle sue pur meschine necessità. Duttile come tutti i democristiani di un certo livello, capace di coniugare la più alta visione di sé con una certa spregiudicata disinvoltura nel mettersi al servizio degli altri, due doti del resto meno contraddittorie tra loro di quanto possa apparire in chi per gli altri, nel senso delle idee, nutre soprattutto disprezzo, è passato senza traumi da Andreotti a Berlusconi, trattenendosi solo per lo spazio di un mattino nel Partito Popolare, e se non dovrebbe avere grossissimi problemi a cambiare ulteriormente collocazione, lo farebbe solo a patto di non doversi allontanare di un filo dalle stanze dove si gestisce il potere, che del tipo umano di cui incarna rappresenta l'unico e autentico terreno di cultura e di crescita. Per cui, con il vento che tira in Lombardia, per quanto fastidio possa dargli Bossi, per quanta genuina soddisfazione trarrebbe dall'idea di fare le scarpe a Berlusca, per quanto possa averlo irritato il blocco della lista col suo nome sopra, non si vede come potrebbe schiodarsi dalla Casa delle Libertà. Di fatto, dopo il niet del vertice del centrodestra, prima ha detto che avrebbe chiesto una deroga, che non è la più bellicosa delle dichiarazioni. Poi ha spiegato che deve rendersi conto esattamente di come stiano le cose e adesso, suppongo, starà già trattando il numero di consiglieri sicuri da inserire nel listino, qualsiasi cosa esso sia, e le altre contropartite previste o supposte. Lui ha fatto così e lo sapevamo anche prima di eleggerlo. Bisogna ammettere, tuttavia, che questa prassi politica non si può spiegare soltanto in termini ideologici o caratteriali. Di fatto, nel nostro allegro paese è più diffusa di quanto possa fare piacere ammettere, e la politica italiana oggi è una via di Damasco estremamente trafficata. Di dietro flot più o meno precipitosi, di solenne dichiarazioni di autonomia destinate a concludersi con festosi rientri, sono piene le cronache. Se Formigoni tutto sommato si è mosso con un minimo di garbo, perché lui la lista personale aveva detto di volerla fare nell'interesse di tutta la sua coalizione, gli altri di solito sono di maniera assai meno felpate. Il grido di «se non mi date subito questo o quest'altro me ne vado e peggio per voi» nei dibattiti politici tende a riecheggiare con una frequenza allarmante. A Milano il sindaco Albertini nelle trattative con i partiti della sua riluttante maggioranza non si serve in pratica di altri argomenti. Bossi, l'ha dimostrato anche recentemente, ne ha fatto lo strumento principe delle sue fortune. I vari De Michelis, Bobo Craxi, La Malfa e simile frittura minuta hanno spesso cercato di giocare in quel senso le poche carte di cui dispongono. E per quanto riguarda la sinistra, se è fin troppo facile fare dell'umorismo su uno specialista del calibro di Mastella, l'ho fatto anch'io domenica scorsa, non bisogna dimenticare che Bertinotti ha brandito quel tipo di minaccia per anni e anni, tutti quelli della resistenza, che Verdi, comunisti italiani e altri cespugli non sono assolutamente alieni a ricorrervi quando capita, e che in una sua variante, appena un po' meno esplicita, si è fatto forte lo stesso Prodi nei battibecchi con Rutelli e compagni. Poi tutti finiscono per tornarsene buoni buoni all'ovile, sfido. La legge elettorale vigente premia le aggregazioni e chi minaccia a correre da solo può sì condannare a sicura sconfitta i propri ex compagni, ma con ottime prospettive di perire egli stesso nel disastro. Per cui l'argomento in realtà funziona soprattutto per quelli che possono prospettare l'eventualità di passare nel caso con l'altra parte. Il che a un Mastella e persino a un Formigoni è possibile, ma a un Prodi o a un Bertinotti evidentemente no. Il che non toglie il che non toglie che l'argomento continua ad essere impiegato con zelo e frequenza, contribuendo non poco a dare dalla politica nazionale quell'immagine di mercato permanente delle vacche che tanto contribuisce ad allontanarne gli animi sensibili, con sicuro vantaggio, indovinate di chi. Pazienza. Sono gli effetti, in gran parte inevitabili, del sistema maggioritario di coalizione, che costringendo le parti in causa ad aggregazioni più o meno forzose non favorisce certo la coerenza ideologica delle coalizioni che ne risultano. Chi è spinto a scegliersi i propri compagni di letto sulla base soprattutto di considerazioni di utilità propria non avrà moltissime remore a cambiarli, se l'operazione vi sembrerà appena un poco più vantaggiosa. E questo probabilmente è l'argomento principale che si possa invocare a favore di quel metodo proporzionale cui la sinistra è convinta chissà perché di poter trarre vantaggio dall'andazzo corrente fermamente contraria. Stando così le cose, le minacce di secessione e i relativi rientri contrattati sono destinati soltanto ad aumentare. Forse sulla via di Damasco sarà il caso di installare qualche semaforo.